Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. La cosa si faceva interessante. Campi, alberi e siepi sfuggivano ai lati veloci come il lampo, tanto era forte l'andatura che avevano preso. Erano quasi a fianco della prima carrozza. Si poteva udire chiaramente la voce di Jingle, sopra il rombo delle ruote, incitare i postiglioni. Per la rabbia e l'eccitazione il vecchio Wardle aveva la bava alla bocca, ruggiva «mascalzone» e «canaglia» a dozzine di volte. Stringeva il pugno e lo agitava espressivamente verso l'oggetto del suo sdegno. Ma Jingle si limitava a ricambiargli un sorriso sprezzante e rispose alle sue minacce con un grido di trionfo quando i suoi cavalli, in seguito ad un uso intensificato di frusta e di speroni, ruppero in un galoppo ancora più veloce, lasciandosi indietro gli inseguitori. Mr. Pickwick aveva appena ritirato la testa dal finestrino e Mr. Wardle, esausto a forza di gridare, aveva fatto lo stesso, quando un tremendo scossone li sbatté avanti contro la parete anteriore della vettura. Un colpo improvviso, uno schianto fragoroso, una ruota volò via e la carrozza si ribaltò. Dopo pochissimi secondi di sbalordimento e confusione, durante i quali si poté capire soltanto che i cavalli si slanciavano avanti e che i vetri andavano in pezzi, Mr. Pickwick si sentì tirar fuori dallo sfasciame della carrozza. E appena si fu rimesso in piedi ed ebbe sbrogliato la testa dalle falde del cappotto che avevano praticamente annullato il vantaggio degli occhiali, i suoi occhi abbracciarono il disastro in tutta la sua gravità. Il vecchio Mr. Wardle, senza cappello e con gli abiti strappati in più punti, stava al suo fianco e i pezzi della vettura erano sparsi qua e là ai loro piedi. I postiglioni, che erano riusciti a tagliare le tirelle, stavano in piedi, sfigurati dal fango e tutti arruffati per quella corsa selvaggia vicino alle teste dei cavalli. Un centinaio di yard più avanti stava l'altra carrozza, che nel sentire lo schianto si era fermata. I postiglioni, entrambi con la faccia piegata in un largo sogghigno, osservavano il nemico dalle loro selle e Mr. Jingle dal finestrino della carrozza contemplava la rovina con evidente soddisfazione. Si stava facendo giorno e la scena era ormai perfettamente visibile nella grigia luce dell'alba. «Ehi là!» gridò l'impudente Jingle. «Nessun ferito? Persone anziane, piuttosto pesanti, affare pericoloso, veramente!» «Mascalzone!» ruggì Wardle. «Ah ah!» rispose Jingle e poi aggiunse, ammiccando con aria di intelligenza e accennando col pollice all'interno della carrozza: «A proposito, lei sta benissimo, vi manda i suoi omaggi, vi prega di non stare in pensiero, un saluto affettuoso a tutti! Volete salire qua dietro? Avanti, ragazzi!» I postiglioni si riassettarono bene in sella e la carrozza ripartì, mentre Mr. Jingle, in segno di scorno, sventolava dal finestrino un fazzoletto bianco. Nulla in tutta l'avventura, nemmeno il ribaltamento, aveva alterato il corso calmo e regolare dell'umore di Mr. Pickwick. Ma la bassezza di abbreviare in tuppi il nome del suo fedele seguace dopo avergli preso in prestito del denaro era più di quanto potesse pazientemente tollerare. Ansimando e imporporandosi fin sopra le punte degli occhiali, disse lento e solenne: «Se mai ritroverò quell'uomo, io...» «Sì, sì», lo interruppe Wardle, «tutto questo sta bene, ma mentre noi siamo qui a chiacchierare, quelli prenderanno la licenza e si sposeranno a Londra!» Mr. Pickwick tacque e represse dentro di sé la sua vendetta come si imbottiglia e si tappa un vino generoso. «Quanto dista la prossima posta?» chiese Mr. Wardle a uno dei postiglioni. 6 miglia, vero Tom? Un po' di più. Un po' più di 6 miglia, signore!» «Qui non si scappa», disse Wardle. «Dobbiamo farcele a piedi, Pickwick.» «Non c'è altro da fare», rispose quel vero grand'uomo. E così, spedito avanti a cavallo uno dei postiglioni, con l'incarico di procurare una nuova carrozza ai cavalli freschi, e lasciato l'altro indietro a occuparsi di quella fracassata, Mr. Pickwick e Mr. Wardle si misero coraggiosamente in cammino, dopo essersi avvolti le sciarpe intorno al collo e rincalcati i cappelli, per salvarsi il più possibile dal diluvio di pioggia, che dopo una brevissima interruzione aveva ricominciato a venir giù a dirotto. Capitolo decimo, che chiarirà qualsiasi dubbio, se mai ve ne furono, sul disinteresse di Mr. Jingle. Ci sono a Londra molti vecchi alberghi, già quartier generali di famose diligenze, nei tempi in cui le diligenze compivano i loro viaggi in modo più grave e solenne di quanto non facciano adesso, ma che ora si sono ridotti a essere poco più di rimesse e biglietterie per le corriere di campagna. Nel Borough, in particolare, sono rimaste una mezza dozzina di vecchie locande che hanno conservato immutato il loro aspetto e che sono sfuggite alla febbre delle pubbliche ricostruzioni e alle spire della speculazione privata. Sono vecchi edifici, grandi, irregolari e strani, con terrazze, corridoi, scale, tutto abbastanza spazioso e antiquato per dare materia a 100 storie di spiriti, se mai dovessimo ridurci alla lamentevole necessità di inventarne, e se il mondo durerà tanto a lungo da esaurire le innumerevoli e veraci leggende connesse col vecchio ponte di Londra e le sue adiacenze dalla parte del Surrey. Nel cortile appunto di una di queste locande, niente meno che il famoso Cervo Bianco, c'era un uomo attivamente occupato a grattare il fango da un paio di stivali. Una sonora scampanellata fu seguita dall'apparizione di una piacente cameriera sul ballatoio del piano superiore. Costei, dopo aver bussato a una porta e aver avuto una richiesta dall'interno, si affacciò alla ringhiera e chiamò: «Sam!» «Oe!» rispose l'uomo col cappello bianco. «Il numero 22 ha bisogno degli stivali!» «Chiedete al numero 22 se li vuole subito o se vuole aspettare finché potrà averli!» fu la risposta. «Via, non fate lo sciocco, Sam!» disse la ragazza tutta moine. «Il signore ha bisogno degli stivali immediatamente!» Un'altra sonora scampanellata e la vecchia padrona del Cervo Bianco, sempre in faccende, comparve sull'apposito ballatoio. «Sam!» gridò la locandiera. «Dov'è quel pigro fannullone? Ehi, Sam! Ah, siete lì! Perché non rispondete?» «Perché non sarebbe stata educazione rispondere finché voi non finivate di parlare?» rispose Sam, piccato. Allora pulite immediatamente le scarpe al numero 17 e portatele alla saletta privata, stanza numero 5, primo piano. La locandiera buttò un paio di scarpe da donna nel cortile e si allontanò in gran fretta. Numero 5, disse Sam raccogliendo le scarpe e segnando la loro destinazione sulle suole con un pezzo di gesso tolto di tasca. Scarpa da donna e saletta privata. Non credo che sia arrivata con la corriera. È arrivata stamattina presto, disse la ragazza che stava ancora appoggiata alla ringhiera del ballatoio, con un signore in vettura di piazza. Ed è proprio lui che vuole i suoi stivali. E fareste meglio a sbrigarvi. Questo è quanto. Mr. Samuel si diede a spazzolare con tanta entusiastica buona volontà che in pochi minuti gli stivali e le scarpe, lucidi da fare invidia a un poliziotto, solo lucido Dale Martin al cervo bianco, erano arrivati alla porta del numero 5. «Avanti!» rispose una voce maschile quando Sam bussò alla porta. Sam fece il suo migliore inchino ed entrò alla presenza di una signora e di un signore seduti a colazione. Dopo aver ossequiosamente deposto gli stivali a destra e a sinistra dei piedi del signore e le scarpe a destra e a sinistra di quelli della signora, indietreggiò verso la porta. «Lustra scarpe!» disse il signore. «Signore?» disse Sam chiudendo la porta e tenendo la mano sulla maniglia. «Conoscete, come si chiama, l'ufficio di stato civile?» «Sì, signore.» «Dov'è?» «Alla chiesa di San Paolo, signore, dove c'è il posteggio delle carrozze.» E fermatosi un istante per vedere se avevano ancora bisogno di lui, Sam lasciò la stanza. 9:30, l'ora giusta, esco subito», disse il signore che non è necessario presentare come Mr. Jingle. «L'ora giusta? Per che cosa?» disse la zia Zitella con fare civettuolo. «La licenza, angelo di letto, avvertire la chiesa, chiamarvi mia domani», disse Mr. Jingle stringendo la mano della zia Zitella. «La licenza», disse Rachel arrossendo. «La licenza», ripeté Mr. Jingle. «A prender la licenza, in fretta me ne vo, in fretta dal mio amore dindon ritornerò.» Thank you. come correte? Disse Rachel. Correre? Nulla in confronto delle ore, giorni, settimane, mesi, anni. Quando saremo uniti, correre? Voleranno. Elettricità, grandine, macchina a vapore, forza di 100 cavalli? Nulla al confronto. Non potremmo sposarci prima di domattina? Chiese Rachel. Impossibile, non si può. Avvertire la chiesa, prendere la licenza oggi e celebrare il rito domani. Ho tanta paura che mio fratello ci scopra, disse Rachel. Ci scopra? Assurdo, troppo scosso dal ruzzolone. E per di più, tutte le precauzioni. Abbandonata la carrozza di posta, un pezzo a piedi, presa una vettura di piazza, venuti al Boro, l'ultimo posto al mondo a cui penserà. Un'idea geniale, veramente. Non state via troppo tempo, disse amorosamente la zitella mentre Mr. Jingle si piantava in testa il suo cappello ammaccato. Lontano da voi, crudele maliarda! E Mr. Jingle saltellò giocondamente fino alla zia zitella, impresse un casto bacio sulle sue labbra e uscì, danzando, dalla camera. Caro uomo, disse la zia zitella mentre la porta si chiudeva dietro di lui. Strana vecchietta, disse Mr. Jingle attraversando il corridoio. È doloroso pensare alla perfidia della nostra specie e pertanto non seguiremo il filo delle meditazioni di Mr. Jingle lungo la strada che lo portava all'ufficio di stato civile. Era già di ritorno al Cervo Bianco quando due signori grassi e uno magro entrarono nel cortile e si guardarono intorno cercando una persona qualificata a cui rivolgere qualche domanda. In quel momento c'era appunto Mr. Samuel Weller, occupato a lucidare un paio di stivali a risvolti colorati, proprietà privata di un fattore che si stava ristorando con una leggera colazione di 2 o 3 libbre di vitello freddo e un boccale o 2 di birra scura dopo le fatiche durate al mercato del Borough. E verso di lui si diresse risolutamente il signore magro. «Amico», disse il signore magro, «tu sei uno che vuole consigli gratis», pensò Sam. «O non ti saresti innamorato di me così tutto d'un colpo?» Ma disse solo, «Sì, signore». «Amico», disse il signore magro con un conciliante colpetto di tosse, «avete molta gente in albergo? Molto da fare, eh?» Sam sbirciò il suo interlocutore. Era un ometto secco, con una faccia scura, schiacciata, e occhietti neri mobilissimi che brillavano e ammiccavano continuamente ai lati di un piccolo naso inquisitore con cui sembrava che giocassero sempre a rimpiattino. Era tutto vestito di nero, con stivali scintillanti come gli occhi, una sottile cravatta bianca e una camicia pulitissima con gala. La catena d'oro dell'orologio e i sigilli pendevano dal taschino. Portava in mano, senza infilarli, i guanti neri di pelle, e quando parlava cacciava i polsi sotto le falde della giacca con l'aria di un uomo abituato a fare domande volutamente imbarazzanti. «Molto da fare, eh?» disse l'ometto. «Oh, una cosa giusta, signore», rispose Sam. «Non si fallisce e non si fa fortuna. Mangiamo il lesso senza capperi e non ci importa del rafano se possiamo avere la carne». «Ah», disse l'ometto, «siete un burlone voi? Non è così?» «Mio fratello maggiore era accusato di questo vizio», disse Sam, «e può darsi che sia attaccaticcio. Dormivo con lui». «È strana questa vecchia casa», disse l'ometto guardandosi intorno. «E se ci aveste avvertito del vostro arrivo l'avremmo fatta rimodernare», rispose imperterrito Sam. L'ometto sembrò piuttosto sconcertato dalla freddezza delle risposte e passò a una breve consultazione con i due signori grassi, a conclusione della quale l'ometto prese un pizzico di tabacco da una scatola oblunga d'argento e avrebbe ripreso la conversazione se uno dei due signori, che oltre a un volto benevolo possedeva un paio di occhiali e uno di ghette nere, non fosse intervenuto. Thank you. In pratica, si tratta di questo, disse il benevolo signore. Il mio amico qui, e indicava quell'altro grasso, vi darà mezza sterlina se risponderete a una o due... Un momento, caro signore. Caro signore, disse l'ometto, prego, permettete, caro signore, è essenziale in questi casi osservare questa regola. Se mettete un affare nelle mani di un professionista, non dovete assolutamente interferire nel suo operato quando la cosa sia avviata. Dovete avere in lui un'illimitata fiducia, veramente, aggiunse voltandosi verso l'altro grasso signore. Non ricordo il nome del vostro amico. Pickwick, disse Mr. Wardle, poiché altri non era che quel gioviale personaggio. Ah, Pickwick, veramente, Mr. Pickwick, caro signore, scusatemi, sarò felice di ricevere qualsiasi suggerimento da voi in privato, come amico scurie, ma dovete riconoscere l'inopportunità di interferire nel mio operato, in questo caso, con un tale argomento ad captandum quale è l'offerta di mezza sterlina. Veramente, caro signore, veramente. E l'ometto tirò su una polemica presa di tabacco con aria molto profonda. Il mio solo desiderio, signore, disse Mr. Pickwick, era di condurre a termine questo spiacevolissimo affare al più presto possibile. Giustissimo, giustissimo, disse l'ometto. A questo scopo, continuò Mr. Pickwick, mi sono servito di quegli argomenti che la mia esperienza degli uomini mi ha insegnato a considerare come più efficaci in ogni occasione. Già, già, già, disse l'ometto, ottimi, ottimi davvero, ma avreste dovuto suggerirli a me, caro signore. Non posso credere che non siate al corrente di quanta fiducia bisogna dare ai professionisti. Mr. Wardle si strinse nelle spalle e stette zitto. Vorremmo sapere, disse solennemente l'ometto, e rivolgiamo a voi la domanda al fine di non risvegliare apprensioni nella locanda. Vorremmo sapere chi avete qui presentemente. Chi abbiamo qui? Disse Sam, che nella sua mente vedeva gli ospiti attraverso quel particolare articolo di vestiario che cadeva sotto la sua giurisdizione diretta. C'è una gamba di legno al numero 6, un paio di stivali tedeschi al 13, ci sono due paia di scarpe alte in sala di soggiorno, questi stivali a risvolti colorati nella saletta del bar e altre 5 paia di stivali rivoltati in sala da pranzo. Nient'altro, disse l'ometto. Aspettate un momento, rispose Sam ricordando improvvisamente. Sì, sì, ci sono un paio di Wellington molto frusti e un paio di scarpe da donna al numero 5. «Che tipo di scarpe?» si affrettò a chiedere Mr. Wardle, che insieme a Mr. Pickwick era rimasto stupefatto a quell'originale catalogo degli ospiti. «Scarpe di paese», rispose Sam. «C'è il nome del calzolaio?» «Brown». «Di dove?» «Muggleton». «Sono loro!» esclamò Wardle. «Li abbiamo trovati, per bacco!»